24, i gialli della storia. Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Alle 21.37 di sabato 2 aprile 2005 Giovanni Paolo II ha concluso la sua esperienza terrena, così tanto caratterizzata negli ultimi anni dalla malattia e dalla sofferenza. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la sua storia, la storia del pontificato di Karol Wojtyla, alla luce della sua fisicità, da quella prorompente atletica dei primi anni a quella dolorosa e sofferente degli ultimi anni e delle ultime ore. Per compiere questo percorso ci avvarremo delle testimonianze dello scrittore Vittorio Messori, del cardinale Julian Herranz. E cominciamo da molti anni fa, quando Karol Wojtyla celebra la sua prima messa dopo l'incoronazione pontefice. È il 22 ottobre del 1978. Karol Wojtyła appare in piazza San Pietro per celebrare la messa di inaugurazione del suo pontificato. Sembra pienamente investito della missione affidatagli da Dio. Ha la serenità di un attore che ha già imparato la parte. La piazza è piena di gente, circa 200.000 persone. Si tratta della chiamata al pontificato di un uomo che ha vissuto direttamente sulla sua pelle, se così si può dire, la tragedia delle due ideologie sanguinarie del XX secolo, prima il nazismo e poi dopo il comunismo. Quando sfumano le note dell'antica litania dei santi fra nubi d'incenso che avvolgono l'altare, il primo cardinale diacono, Pericle Felici, si avvicina al nuovo papa per deporre sulle sue spalle il sacro pallio, una stola di lana bianca su cui sono intessute piccole croci nere, l'emblema del potere papale. Felici pronuncia la formula di investitura. Te, pastorem ecclesiae universae elegit. Amen, ripetono i 117 cardinali di Santa Romana Chiesa. Poi si alzano e si avviano fino a formare una lunga fila per baciare l'anello del Papa in segno di obbedienza. E a un certo punto, quando è il turno di Stefan Wyszyński, il cardinale primate di Polonia, anche il Papa si inchina stringendo l'anziano primate in un forte abbraccio. E questo gesto, la particolare attenzione manifestata in pubblico per Wyszyński, sono un segnale. E questo segnale, lanciato al mondo nell'ottobre del 78, è l'inizio della nostra ricerca. Da quel momento Giovanni Paolo II diventa il padrone assoluto dell'uso dei simboli, fino ad arrivare, se possibile, al simbolo per eccellenza, a ciò che ha trasformato Giovanni Paolo II nell'icona della sofferenza. Quando si esauriscono le ultime note del Te Deum, Karol Wojtyła, il supremo pontefice, non riesce a stare fermo. A grandi passi, con i paramenti svolazzanti, afferra il pastorale come un bastone da pellegrino e attraversa rapidamente il sagrato sotto gli occhi stupefatti dei cardinali. Benedice i pellegrini, stringe mani, bacia bambini. Poi torna al centro del sagrato. Io l'ho visto, guarda, ero lì sul sagrato quando il 22 ottobre del 78, alla fine della messa, lui ha rotto il protocollo, ha superato sconcertando i cerimonie di pontifici, che è difficile sconcertarli. È andato quasi di corsa, scendendo i gradini del sagrato per andare all'incontro dei bambini e dei malati che erano lì, ondeggiava il vento là. E io, quando ho visto quello, dico... Veramente lui ha visto nei malati e nei bambini Cristo. Ma chi è veramente questo porporato polacco arrivato all'improvviso a sconvolgere la prassi millenaria della tradizione della Chiesa? Come vuole guidare la Chiesa di Roma nell'ultimo quarto del XX secolo? Che il suo atteggiamento sia diverso, più moderno, disinvolto, lo si capisce subito. Giovanni Paolo II è di fronte alle telecamere per un messaggio urbi e torbi. Buona Pasqua, nella gioia e nella pace di Cristo risorto. Bon fête de Pâques, dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Frohe und gesegnete Ostern. E blessed Easter in the joy of Jesus Christ, the risen Lord and Savior of the world. Un grande comunicatore sia nei contenuti sia nell'immagine, come ha scritto il vaticanista Luigi Accattoli. Giovanni Paolo II ha modificato l'immagine papale e, staccandola dal bronzo e dal latino che i predecessori avevano amato, sopportato, l'ha avvicinata al sentimento della comune umanità. Queste parole ci portano direttamente alla pagina che racconta il Wojtyla carismatico, una stupefacente macchina di energia. C'è un mito, il mito dell'uomo Wojtyła, intrepido e instancabile, poliglotta e creativo, senza paura e senza rimpianti. Un uomo che è diventato pontefice di Roma, ma che è riuscito a non farsi dominare dall'immagine del papato. Piuttosto, ha imposto la sua immagine al papato. Una volta c'era una netta separazione tra l'appartamento privato e quello pubblico del Palazzo Apostolico. Giovanni Paolo II ha rotto questa separazione. Ha voluto ospiti in cappella e in sala da pranzo. Ha ammesso giornalisti e fotografi. Ha mescolato pubblico e privato, personalizzando la scena pubblica e facendo anche della vita privata uno strumento di governo o quantomeno di comunicazione con l'esterno. Non dimentichiamo, questo è il primo Papa il quale si è fatto costruire la piscina, ha nuotato. Questo è il primo Papa il quale è andato a sciare, addirittura in un'occasione accompagnato dal Presidente della Repubblica. Seguendo il suo istinto di libertà, Wojtyła spezza il soggiorno estivo a Castel Gandolfo con brevi vacanze di 2 settimane all'anno sulle Alpi. E diventa così il primo Papa ad accettare di essere fotografato in tenuta da sci o da escursionista. Giovanni Paolo II commenta così questi avvenimenti. Forse qualcuno troverà scandaloso che un Papa si metta a sciare, ma non c'è scandalo laddove c'è amicizia, semplicità e valori umani semplici. E le sue parole ben presto si trasformano in atti concreti, in discorsi pubblici, in prese di posizioni scomode. Varsavia, 1979. Giovanni Paolo II è sul palco, di fronte ad una folla sterminata. Con parole chiare e determinate, lancia il suo messaggio. In nome del futuro dell'uomo e dell'umanità bisogna pronunciare questa parola, solidarietà. Un discorso politico, reso esplicito anche dalla forza fisica con cui viene espresso. La stessa forza fisica che il pontefice esprime mentre ascolta l'invocazione disperata di questo minatore in Bolivia. È la sua presenza quasi una garanzia che il Papa è lì anche per difendere gli umili, per aiutare gli oppressi, per stringerli in un caldo abbraccio. Ma è in Nicaragua che si trova uno dei documenti più interessanti di questo pontificato dei gesti. Managua, 6 marzo 1983. Giovanni Paolo II scende dall'aereo e incontra Daniel Ortega e i ministri del suo governo rivoluzionario, ispirato ai principi del socialismo. Tra di essi un prete, un esponente della teologia della rivoluzione, Ernesto Cardenal, ministro della cultura. Wojtyła lo vede e, scuro in volto, lo rimprovera. Con il dito alzato, in segno di ammonimento. Non accetta il Papa che un prete cattolico partecipi ad un governo nato da una rivoluzione. Nell'isola di Gorée, in Senegal, usa parole dure contro la schiavitù. È un dramma della civiltà che si diceva cristiana. È un dramma umano. Il grido delle generazioni esige che noi ci liberiamo per sempre da questo dramma, perché le sue radici sono in noi, nella natura umana, nel peccato. In Sicilia, nello scenario maestoso della Valle dei Templi, minaccia gli uomini della mafia. Lo dico ai responsabili, convertitevi una volta verrà il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio, appunto, parole e gesti di una fondamentale importanza. Un'anima, quella del Papa, che ha la forza di parlare appunto attraverso il suo corpo. Il suo sembra essere un apostolato della carezza e una liturgia dei gesti. Tra tutti i ricordi delle sue novità gestuali con le donne, il più bello ci riporta a Sydney, in Australia, il 26 novembre 1986, nello stadio del cricket. Bacia in fronte la ragazza che ha tenuto il discorso di saluto, tenendole la testa tra le mani. E dopo quel bacio prende per mano due ragazze in maglietta rossa che fanno parte del coro, unendosi ad una catena di 30.000 persone che lega tutto il campo. Con loro si dondola e canta, infine abbraccia le due più vicine, stringendole al petto e poggiando una mano sui capelli a coda di cavallo. Direi che in questa sua affettività così libera c'è anche, come dire, lo stile del suo pontificato, lo stile paterno, lo stile del padre di famiglia, lo stile di colui che considera tutti i propri figli. E chiaramente in questa prospettiva la carezza e, come dire, il contatto anche fisico viene istintivo. Qual è il padre, qual è la madre che non accarezzano i loro figli? Palasport di Genova. Giovanni Paolo II prende tra le mani il volto della ragazza che l'ha salutato a nome di 13.000 compagni e la bacia in fronte. La ragazza va dal cardinale Siri, che sta a due passi dal pontefice, un gradino più in basso, e il severo arcivescovo ottantenne alza la mano e offre l'anello da baciare. Due modi contrapposti di intendere il rapporto con i fedeli e la stessa missione dell'apostolato, Wojtyla da una parte e Siri dall'altra. Benny Lai, nel suo libro Il Papa non eletto, ha riportato una conversazione confidenziale in cui il cardinal Siri si esprime a proposito del comportamento eccentrico del Papa. Molti si sono scandalizzati perché è andato a sciare sul Terminillo, sul Monte Adamello. Io non mi sono scandalizzato perché ho detto i papi che verranno capiranno questa è una cosa che non si deve fare. Intanto, a pochi anni dall'elezione, un avvenimento sconcertante avrebbe segnato in maniera determinante la vita del pontefice. È il 13 maggio 1981, un tranquillo pomeriggio primaverile. Giovanni Paolo II saluta e benedice i 30.000 pellegrini che affollano la piazza per l'udienza generale del mercoledì. Il Papa è al secondo giro, stringe le manifestanti che si agitano di fronte ai suoi occhi, lancia cenni di saluto verso le file arretrate della folla, abbraccia i bambini. Sono le ore 17 e 17 minuti. Un colpo, un altro. Il Papa si accascia. Don Stanislao lo sorregge, è sanguinante, è stato colpito all'addome. La campagnola parte di scatto, sfiora la folla, va verso la parte opposta della piazza. La gente è sbigottita, quella che ha visto, quella che ha capito qualcosa. Il polso del pontefice è debole. Comunque il tempo, inesorabile, passa. Il bollettino medico scriverà 5 ore e 20 minuti per l'accorciamento del canale gastroenterico nei punti danneggiati dal proiettile. Un intervento classico della chirurgia militare, con grave rischio di dissanguamento, confesserà il professor Curcitti, il medico che l'ha operato. Il Papa è fuori pericolo, i 21 giorni del ricovero passano in fretta. Il 3 giugno dell'81 Giovanni Paolo II può abbandonare l'ospedale per rientrare in Vaticano. Da questo momento in poi il pontefice combatterà una lotta perenne con il proprio corpo per sconfiggere con l'attività, a tratti anche frenetica, il dolore e la malattia. Il 20 giugno dell'81 il pontefice è costretto a un nuovo ricovero, sempre al Policlinico Gemelli per un nuovo intervento. Il Papa ha contratto un'infezione, il citomegalovirus, ed è allora che Wojtyla decide di non far mistero della sua sofferenza e della sua malattia. Il 12 luglio del 92, durante l'Angelus, il Papa avverte i fedeli riuniti per la preghiera che l'ospedale ancora lo aspetta. I medici hanno identificato un tumore al colon che deve essere asportato. Come mai prima d'ora l'intimità del pontefice diventa un fatto pubblico. Mi fanno curare, mi fanno esaminare, sono tanto esaminato come mai nella vita. Esaminato fino in fondo del mio organismo. non sapevo neanche che esistono tali organi. Passa più di un anno, il fisico del Papa non desta preoccupazione fino a quando all'improvviso il Papa ha dei disturbi visibili. La sua mano tremante sarà interpretata come un segno non certo positivo della sua condizione fisica. Successivamente si saprà che quei tremori sono dovuti al Parkinson. Ed è qui che inizia la lunga odissea di una malattia che avanza e sembra minarlo duramente non solo nel fisico. Il Papa vuol salutare tutti. Come vedete è un Papa un po' deficiente. Deficiente, ma non del tutto distrutto. E l'anno 2000 è tra i numerosi impegni, uno fra tutti, quello della Giornata Mondiale della Gioventù, certamente il momento più concreto della tenera e caparbia fisicità del massaggio di Giovanni Paolo II. Una fisicità contagiosa che colpisce e coinvolge giovani di tutto il mondo. Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Roma, anno del Signore 2000, l'inizio di un nuovo millennio. È un evento che difficilmente le cronache potranno dimenticare. Centinaia di migliaia di giovani provenienti da ogni parte del mondo si sono dati appuntamento nella città eterna per sfidare il caldo insopportabile e la stanchezza fisica, ma soprattutto per stringere in un lungo abbraccio un anziano signore vestito di bianco. Vive già 80 anni, i giovani lo vogliono sempre giovane. Come fare? Sembra la conferma definitiva di quanto il corpo del Papa, con il suo carisma, i suoi gesti affettuosi, la sua umanità sofferente, sia diventato comunicazione di fede e di speranza. Dopo quelle ore, quelle intense emozioni, il dialogo tra Giovanni Paolo II e la gioventù di tutto il mondo non si sarebbe più interrotta fino all'abbraccio finale nella notte della morte del Papa. La malattia avanza e Giovanni Paolo II è stanco, ma l'anima del Papa parla attraverso il suo corpo. Giovanni Paolo II trascina se stesso, il suo corpo, da un appuntamento all'altro, da una folla a una piazza gremita di fedeli, da una telecamera a una diretta, fino ad arrivare all'estate del 2004. Sabato 14 agosto 2004, Lourdes. Papa Wojtyła arriva alla Grotta della Vergine e crolla sull'inginocchiatoio, carico dei dolori del mondo e della sua personale fragilità. Molti dei 300.000 fedeli che hanno assistito all'omelia dell'Assunta sono stati presi dalla commozione, anzi spesso dal pianto, quando il pontefice, piegato dalla fatica, dal dolore, dal morbo che lo fa tremare, da una crisi respiratoria, si è guardato intorno quasi con smarrimento e ha chiesto: aiutatemi. Pianti, applausi. Sento con emozione, dice, di aver raggiunto la meta del mio pellegrinaggio. E a sera, nel momento culminante della processione delle fiaccole, ecco il suo messaggio. Si depongano le armi e nei cuori si spengano l'odio e la violenza, e ogni uomo veda nell'altro non un nemico da combattere, ma un fratello da accogliere ed amare, per costruire insieme un mondo migliore. Ancora una volta un messaggio forte rivolto all'intera umanità e a ogni singolo uomo, perché faccia di tutto per impedire odio e violenza e per costruire un mondo migliore. Ma il grido lacerante di Giovanni Paolo II assume un significato e un colore emotivo intensissimo, perché è unito all'immagine della sua fragilità fisica. Ma rimane ancora un interrogativo interessante: perché il Papa non nasconde la sua malattia? Ancora il cardinale Herranz. Questo è quello che io vedo che fa il Papa. Con la sua amicizia insegna a vivere la carità, con la sua fortezza insegna ad essere forti sin fide, forti nella fede di Cristo, non mollare anche quando andare controcorrente, che le piace tanto. Lo fa perfino in poesia, quando parla del torrente che scende dalla montagna, che bisogna andare controcorrente per risalire dove l'acqua è pulita. Il corpo malato e l'anima sofferente di Giovanni Paolo II hanno trovato un elemento di continuità concreta. Ecco perché Giovanni Paolo II ha accettato di portare avanti anche in diretta televisiva la croce della sua esistenza dolorosa. Lui sta dando una lezione, a me mi sembra molto evidente, del valore della croce di Cristo. Perché con la croce ci dobbiamo trovare tutti, in un momento o in un altro, di fatto ci troviamo. Piccole croci ogni giorno, facile trovare, contraddizione, difficoltà, incomprensione, qualche volta anche calunnie, che so io. Poi c'è la malattia e poi c'è la morte. E noi dobbiamo anche in questo imitare Cristo. Quel Cristo che è morto in croce e che è la guida di ogni cattolico. Giovanni Paolo II è veramente agli sgoccioli. Il popolo dei fedeli si prepara a celebrare i riti della passione di Cristo. Manca pochissimo l'appuntamento del Venerdì Santo alla Via Crucis. Incaricato di proporre le meditazioni per l'anno 2005 l'allora cardinale Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI. Le sue parole pronunciate nell'atmosfera solenne del Colosseo, mentre Giovanni Paolo II le ascolta dai suoi appartamenti privati e abbraccia la croce, sono sembrate un severo ammonimento per un futuro, quasi un programma. Ascoltiamole. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a Lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza, quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione nel quale Egli ci aspetta per rialzarci dalle nostre cadute. Tutto ciò è presente nella sua passione. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, ha detto Joseph Ratzinger, allora cardinale, nel commentare la nona stazione della Via Crucis. Un ammonimento severo che è risultato sulla spianata del Colosseo gremita dei fedeli nella notte del Venerdì Santo, un ammonimento che in molti hanno ricordato pochi giorni dopo, in quel sabato 2 aprile, quando il popolo dei cattolici ha sentito il bisogno di stringersi in un caloroso abbraccio con Karol Wojtyla nelle ultime ore della sua vita terrena. Sono da poco passate le 21. In piazza San Pietro il tempo sembra congelato in una lacerante attesa silenziosa. Io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la Seconda Guerra Mondiale. Per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutte e di violenze. Mai più guerra. Mai più terrorismo. In nome di Dio, ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, perdono e vita, amore. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.